Replay. Per la serie Replay riproponiamo questa sera l'ultimo dei quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore che Radio 24 ritrasmette in sintesi il giorno seguente al loro svolgimento. Questa sera il tema è il rapporto tra creatività e talento, tecnologia e tolleranza. Il rapporto cioè che intercorre tra la creatività e gli strumenti espressivi del singolo. Ma è lo stesso Philippe Daverio a presentarci la serata. Quanto c'entra la formazione nella creatività? Cioè uno fa ciò che fa in quanto ha una pulsione automatica che lo spinge a fare o in quanto è stato capace di articolare questa pulsione sulla base di una formazione determinata. Il primo intervento su questo tema è di Stefano Bonaga, filosofo. La formazione come percorso di ciascuno, per essere creativi, prima di tutto di se stessi. Diciamo, l'uomo, nel senso dell'umanità, è l'unico ente nel cosmo di cui, come dice Heidegger, ne va del proprio essere, vuol dire che non ha natura. Per cui la formazione, e cioè il possibile, è esattamente la posta in gioco della vita. Non è semplicemente un'attrezzatura, diciamo, secondaria da applicare a una natura per orientarla verso fini. È esattamente ciò attraverso cui l'umano, diciamo, decide del proprio destino, perché non ha natura, non c'è l'essere dell'esistenza, non c'è l'essere dell'esistenza che non ha natura, e dunque la formazione è esattamente la scommessa che ciascuno fa su se stesso. Gli animali hanno una natura, le cose hanno tendenzialmente una natura, gli umani, diciamo, non hanno natura, e quindi la formazione è la struttura stessa del rischio dell'umano. Per cui quando si parla di formazione si va ben al di là dell'aspetto semplicemente istituzionale, scolastico, strumentale, eccetera. Ne va, per così dire, di noi stessi. Ma non sono tanto le tecniche, cioè la formazione è la sfida della vita. In tedesco, tu sai, si dice Bildung, proprio la costruzione di se stessi, che non passa necessariamente attraverso la scuola. E allora, diciamo così, sarebbe bello che cominciasse a circolare qualcosa che non pensa alla formazione solo come moda strumentale, in funzione per cui ti devi specializzare quando la società ti chiede, dopodiché questo meccanismo di servitù. E devo dire che le scuole, per quanto le conosco io, che non le conosco tutte naturalmente, sono abbastanza lontane da questo modello. C'è proprio l'invito, dai che poi farai, il famoso ingresso nella vita, come se fosse una porta a una certa età, come se si fosse morti prima di entrare nella vita. Dunque il proprio percorso di formazione, secondo Stefano Bonaga, è per ciascuno già una forma di creatività. Al dibattito ha partecipato anche il professor Claudio Strinati, soprintendente speciale per il Polo Museale Romano. La domanda di Philippe Daverio. È difficile nel mondo di oggi sapere quali sono i classicismi ai quali riferirsi. E questo è il tema molto complicato della formazione. Cioè, qual è il riferimento vero? Cioè, o una sorta di percorso di tutto lo scibile, che è difficile applicare su una mente fresca di un ventenne, perché la sua reazione di difesa è comprensibile, tenta di evitarlo. Oppure degli spizzichi e dei bocconi in un mondo, quello nostro, che è diventato molto bizzarro, perché per la prima volta tutto ci appare contemporaneo. Per noi una statua greca antica, un'opera fatta con un ferro, una lamiera oggi, un'opera eclettica del Settecento, appartengono tutte sostanzialmente alla stessa sfera. Questo rende il percorso di formazione molto più complicato e rende anche difficile capire come possa spingere la creatività. Nel mio caso Strinati, no? Io sarei molto interessato a sapere se tu a 8 anni pensavi di diventare sovrintendente. No, non sapevo nemmeno che cosa fosse il sovrintendente. No, pensavo a otto anni, questa però è una cosa che interessa solo me. In realtà io sapevo bene che cosa sarei diventato, perché coltivavo, insomma, una cosa ben precisa. Sapevo che sarei diventato un asso della fisarmonica, perché io dato che avevo dei tic nervosi da bambino, mio padre, per farmeli superare, mi mandò, riteneva per una strana teoria psicologica, non so, originata da quale studio, che la fisarmonica fosse lo strumento per superare i complessi. Aveva questa idea, probabilmente per un motivo fisico, perché io ero, adesso sono alto, ero piccolo, e la fisarmonica è molto grande. Allora, probabilmente schiacciato da questa cosa monumentale, avrei superato i traumi dell'infanzia. La cosa bella è che aveva ragione perfettamente. Cioè, imparai a suonare la fisarmonica, strumento che detestavo proprio, lo trovavo e detesto tuttora, e però con questo impegno fisico spaventoso soltanto di reggerla in mano e fare gli accordi. Poi all'epoca c'era il metodo di formazione antico, che consisteva nel fatto che se sbagliavi il maestro ti menava, qui tu capivi l'errore, era un metodo pedagogico efficacissimo. Tra l'altro questo maestro, pensate, me lo ricordo ancora, c'ho 60 anni, ho 8 anni, e proprio c'era il metodo, cioè, dato che si sbaglia moltissimo all'inizio, no? Il maestro si avvicinava, ti guardava, ti dà delle sberle mostruose. Vi posso garantire che c'era un'ottima formazione, perché dopo non sbagliavo più. E quindi a 8 anni avevo già 2 anni di studio e me la cavavo bene, e quindi sapevo che sarei diventato un grande fisarmonicista. Non sapevo che il maestro che insegnava all'epoca applicava, mi è venuto in mente che tu dicevi il Bildungsroman, no, il romanzo di formazione, applicava la sentenza di Goethe, perché a noi bambini, tra cui io, che dicevo ma io sono negato maestro, non posso, quindi oscillavo tra due sentimenti, essere negato e considerarmi il più grande esecutore di fisarmonica, e diciamo, non sono capace. E allora il maestro disse una frase che dopo molti anni ho saputo che è di Goethe, e cioè dice, ma qui non ci sono geni, non ci sono ciucci, non so come dicesse, il genio è esercizio. Questa è una frase di Goethe, che è vera. Cioè il discorso della formazione, che consiste? Esercizio. Sapete che il più grande, diciamo, letterato, un termine un po' così, italiano del Novecento, Gianfranco Contini, che era un grande filologo, scrittore, intitolava i suoi libri Esercizi. Lui scriveva su scrittori del passato, conosceva tutto perfettamente la letteratura, e lui chiamava i suoi libri esercizi di lettura. Fondamentalmente aveva ragione, cioè in sostanza formarsi che cosa vuol dire? Esercitarsi in modi più diversi, con la parola, con la mano, e verificare se l'esercizio è ben eseguito o male eseguito. In questo senso tutta la vita è sport. La formazione non è solo scolastica. Un caso emblematico è quello dell'attrice Gina Lollobrigida. Studentessa all'Accademia di Belle Arti di Roma, voleva diventare scultrice, si ritrova quasi per necessità nel mondo del cinema. Come guadagnarsi una formazione in un ambito prima mai immaginato? Mi hanno fermato per strada, fuori dell'Accademia, e mi hanno chiesto di fare del cinema. A me non interessava, però c'erano di mezzo 1000 lire al giorno, e a quell'epoca là io non avevo una lira, eravamo sfollati, 6 persone. Correva l'anno, come dicono in televisione, che anno era? Si può dire, ormai. Siamo per qui alla storia. 47-48. E ho accettato, ma per fare la comparsa e per guadagnare i soldi, non per fare il cinema, che non mi interessava. Poi sono ritornati alla carica un altro regista, sempre le solite 1000 lire, e ho accettato. Poi quando mi hanno chiesto di fare la protagonista, e allora era un'altra cosa, allora ho detto di no, perché non mi interessava, insomma, fare l'attrice. Ma sono andati da mia madre, hanno cercato di convincerla, Mia madre mi ha chiesto di essere gentile, di andare da loro, di dire una scusa. Io non sapevo cosa dire e allora chiedo 1.000.000, così il discorso finisce lì e non se ne parla più. E ha detto di sì. E invece mi hanno detto di sì, capirai, 1.000 lire, 1.000.000, come faceva a dire di no? E poi è nata però la formazione attraverso, cioè la formazione attraverso l'esperienza. Cinematografica? Sì, cinematografica. Lì sì, ho cercato di imparare il mestiere e non era facile. Non era facile perché per imparare devi vedere il risultato di quello che fai in teatro per vedere se le tue intenzioni escono fuori sullo schermo. Non escono fuori per niente, perché io soffrivo, ma quando poi mi vedevo non c'era quella sofferenza. Quindi per imparare devi osservarti sullo schermo per correggerti, ma a quell'epoca andare in proiezione per gli attori era proibito, cioè era una cosa da grandi, non era una cosa da principianti. E quindi insomma, a forza di testardaggine ho imparato. È tutto per questo replay dedicato all'ultimo dei 4 incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione de Il Sole 24 Ore e che Radio 24 vi ha riproposto a poche ore dal loro svolgimento. Le voci che avete ascoltato erano del filosofo Stefano Bonaga, del professor Claudio Strinati, soprintendente speciale per il Polo Museale Romano, e dell'attrice Gina Lollobrigida. Buona serata!